Scusa, aspetta, cosa ne so? Comunque, vabbè, mi ho tirato le Exigen 129 euro, e dovrebbe arrivarmi fra un po', quindi adesso voglio tirare il giro 150 euro in contanti che veniranno, e dopodiché il 27 mi prendo la come si chiama, la contenda. Ti do i soldi, mi dici quanto ci vuole, sta sfondo e tutto il resto, tanto arriverà in 3-4 giorni, quello che non è fatto un cazzo. Hai detto che ha preso Exigen? Exigen si chiama, no? Exigen. 6.200, 129 euro. Vabbè, mica squilla il telefono. Antonio, io sto cucinando e ti saluto, dai, sentiamo forse più tardi. Non è il mio telefono, comunque quello di Simona. Allora, vabbè, i telefoni, così li ho, i televisori li ho presi, ne ho preso due, pagati, e tutto, piazzati, speriamo che non si incendino, cazzo, se lo sono fregato davvero. Tutto tranquillo da quelle parti, non è che hanno fatto allusioni, no? No, meno male no, no, sono infatti nessuno, mi lo sai. Cazzo, se dico poco a poco, cazzo, che ho bruciato il televisore di casa, mi metto a farmi pagare la centralina della televisione, oppure la parabola. Non sai, scemo, sono stato zitto, muto, mi sono comprato quelli, come si chiama, il battitore, tutto. Già te lo conservo il battitore, quando ci vediamo ti faccio vedere che condizioni è. Sì, ma poi magari ha beccato l'antenna TV prima, magari non c'entra nulla là, la 5 ottavi, capito? È quello che ha trovato intorno di metallico, però lo sai, no? Nel raggio di vari decine di metri tutto becca, frigge tutti i microcircuiti, li frigge tutti, le schede delle lavatrici eccetera. Bene, di nuovo Antonio, dai, forse a dopo, adesso cucino. Sì, guarda che ha beccato la mantova, l'ha sciolta, perché l'ho regalata da Lido, me l'ha detto, l'ha smontata, lì certo che la base non c'è niente da fare, mi ha detto. Devo pigliarmi una base di mantova 5, è completamente sciolta, mi ha detto dentro. L'ha smontata ed è completamente sciolta, c'è la bobina dentro. Quindi ha preso l'attacco della bobina, ha preso, ha scaricato in pratica nella base delle, per fare massa, hai capito? Dopodiché da lì ha preso l'antenna della TV, perché rimaneva sotto il capo. In pratica il fumo è sceso lì e basta. Meno male, cazzo, non ha preso la parabola. Se avesse preso la parabola e inviato centralizzato, io mi sarei mi sarei ammazzato come mio. Se arrivato un conto, un minimo di 700 euro tra una cosa e l'altra. Più, immaginati, la parabola ci sono già, l'illuminatore che è quattro uscite, poi c'è l'amplificatore, poi c'è il miscelatore, cosa del genere, cazzo, boh, l'avrebbe inculata a me, ma è la mano, è stato fortunato, a meno quello, è scaricato a casa mia, va a fanculo, chi se ne frega dello spavento, ma almeno sono vivo, vegeto e ho risparmiato. E noi ci scherzavamo giorni prima, ti ricordi, ti avevo detto, sali adesso in punta l'antenna a tararla, poi arriva una scarica e ti fai i capelli tipo Zichichi o l'altro, Einstein, ritti. Scherza, mamma mia, guarda, cosa retta è. Vabbè, ciao Antone, a dopo, ciao. Ehi, a dopo, dai. Comunque, cazzo, in 30 anni non è mai capitata una cosa del genere. Da quando abitavo in Virizzedo, anche a lei, via San Donato, con subito di Manuel, mai è successo un cazzo. Arrivo qui, dopo 10 anni, cazzo, uno scherzo del genere, cazzo. Scherzo proprio del cazzo, guarda, verità. Guarda, io una volta credevo che uno sia a piedi, che sia a casa, no? Che il rischio di essere colpiti da un fulmine sia, che ne so, uno su un milione, uno su 100 milioni, tipo una vincita spara all'altro, una cosa rarissima. Invece non so dove, secondo le statistiche, poi bisogna vedere inventate da chi, diceva che il rischio di essere colpiti da un fulmine, non specifica se in casa o fuori a piedi tipo arriva al mare, è una su 3.000 ed è alta, è molto alta la probabilità. Questo mi spaventa ancora di più, capito? Va bene, dai, ci intendiamo. Ciao Antone. Mi è andata bene, a Fabrizio è andata male. Tu immagini tutto Fabrizio, ha pigliato fuoco tutti gli apparecchi, cazzo. Il parcheggio di casa sua, lo scoperto che ha preso la moglie, eccetera, eccetera, cazzo, guarda che... mai si sarebbe sognato anche lui una cosa del genere, cazzo. Il cambiamento climatico ormai è quello che noi ogni volta che c'è un ciclone ci dobbiamo aspettare prima o poi di essere colpiti, per sbaglio, perché sono troppi fulmini, sono 1500 fulmini, che cazzo, ma ce la fai, cazzo. Alghero, cazzo, non hai visto come erano cagati? Io ho visto i filmati della Maddalena, non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Da quando andavo alla Maddalena, cazzo, che scendeva l'acqua dai tetti ai terrazzini, cazzo, tu figurati. È cambiato tutto, bisogna stare molto attenti adesso. La questione tra fumi, acqua e cose del genere... ti rovini tutto, ti rovini, boh, ti rovina tutto, ci manca solo che a Sassari, guarda, che arrivasse una cosa di acqua, tipo quella che l'ho visto, fatta fare l'altro giorno, che mi salga tutto il garage e mi rovina tutto a me, è stata una roba mia, ma non me ne frega una, c'è troppo, però, tu immaginate gli altri, cazzo, perché già è esplosa la tubatura in via Carlo Felice, la sala di Paladolci. Poi vabbè, c'è fulmine e fulmine, anche sono fulminetti più piccoli, cioè, ma certi sono allucinanti, certi sono come il dito di Dio e scaricano una quantità in joule, la potenza, no, una quantità in joule terrificante, tipo quelli che aprono quegli alberi secolari enormi, te li aprono in due all'istante, te li fanno esplodere da dentro, boom, li vedi divisi in due, per carità. Va bene, a da voi, ciao. Ehi, a dopo, non ti preoccupare, dai, ci sentiamo dopo. Hola. questa bella modulazione. Io sono Antonio, ciao. Bello, ma sei da casa tua o in trasferta? No, sono a casa. Bella presente come modulazione. Sono di passaggio che stavo andando in cucina e andata e ritorno a pigliare acqua. Sto bevendo come un cammello. No, accendiamo come buono. Fai vedere, premi molto. Buono, 3. 9,20 pieno. Qua guarda, senza occhiali è per me sta diventando un problema, però è... Aspetta che ce li ho gli occhiali da vicino, aspetta. Forse è tendente anche a 9,25. Prova un po'. 1,2,3 oltre. Guarda se tu dici sporca, 1,2,3 oltre. No, no, comunque sì, confermo 9,20, 9,20. Non è 9,25. Però è segnale normale, liscio, no? Non ci siamo capiti. Ci andrà bene. Ma hai provato una coppiata nuova, baracchino, microfono, diversi? No, ecco, l'MP4 con la 87. Quella 87, per caso quello grigio che ha anche le manopole grigie, tutto grigio? No, tutto nero. Ah no, credevo, forse sì, l'abbiano fatto nero e grigio, però dubito, ma io sto ricordando un altro modello simile. Va bene, tutto va bene, tanto io mi piglio l'acqua e me ne torno in camera, che sto facendo roba al computer. Ok, ci sentiamo. Io ti ho mai sentito con un K, perché tu hai la tonalità della voce bassa, no? E con un K dovrebbe essere il massimo della resa, tipo un 140 con l'MC60. Sicuramente con la tua voce rende meglio, con la mia non rendeva un granché, allora qui l'avevo adatta. No, io già ce l'ho avuto, la verità. Ce l'ho avuto con tanti anni fa. Ma vabbè, però no, io non ti ho sentito, appunto, probabilmente non ero nemmeno in radio all'epoca. Va bene, nel pomeriggio c'era Pomponio, ma molto presto io stavo ancora cucinando, sono stato 2, 2 e mezzo. Stavo provando un mic, ma era basso, poi non so cosa dovevo fare o cosa dovevo fare io. No, io devo cucinare, quindi l'avevo salutato e poi non so tutto niente. Tu dai, buon proseguimento di serata e nel caso dopo, seppure. Ciao. Ciao, ma provo un FM per vedere come va. Sì, aspetta che commuto. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io sono col mic normale. Sembra buono. Parla più a lungo, provo il volume perché qua me la fa un po' più bassa. Sparacchino, ecco. Sì, qua è particolare, sei nei parametri, non strappa, perché questo baracchino c'ha lo strappo facile, purtroppo c'ha lo strappo troppo facile, in ricezione, no? È stretto di panda in una maniera peggio degli altri, però per me qua va bene. Ma vuoi provare un'altra? Guarda ancora. Ok, guarda. Ascolta, se tu aspetta, se tu hai clarifica. Come si chiama? Allora, per centrarmi, uso solo il segno. Uso solo il segno, io mi sto parlando in molti. Prova, mettiamo qua e giù. Come è? Allora, è ancora, non lo puoi mettere il schema è tutto a sinistra, tutto a sinistra, al limite proprio. Cazzo, non riesco a centrarti. Attenzione, Antonio, prova, USB, USB. Prova ora. Anto, ma non mi sentivi? No, adesso sono riuscito a centrarti. Ma tu sei in AM adesso, io pure. Allora, prima ti ho detto, ti ho centrato, però ho dovuto mettere il fine tutto a sinistra, tutto. E rispetto alle altre stazioni che sono leggermente sulla destra rispetto alla posizione centrale. Comunque ti sentivo, se, però dovevi parlare più a lungo, tu. Sì, capo, va bene, andrà bene. Comunque la radio funziona bene, va bene. Per come? Ora, il mare sembra che escano. Ho visto un incremento tipo 9,25 circa a questo smittere, cioè qua ricordati che 9,30 arriva solo Carlo e pochi eletti con Linearone. 9,25 è un ottimo segnale. Sì, sai cos'è, Anto? La vicinanza non permette di vedere gli incrementi, la vicinanza. Poi questo smitter qua che è 10 millimetrico, ancora meno. Poi in più conta che mi devo mettere gli occhiali e la situazione è tribula, dai. Sono contento che funzioni bene. Sono molto contento, ho lasciato il bambino là. Ok, là, adesso vado a farmi una doccia, vado, perché dopo vado a fare una cosa con quel pupetto. Aspetta, Matto, un'ultima cosa, prova a attaccare e staccare adesso, che ti ho attenuato. E cosa attacca e stacchi? Posso abbassare, c'ho i vati qua, posso abbassarli. Adesso c'ho con i vati giusti, aspetta un attimo che li abbasso, c'ho un regolatore, c'ho. Com'è? Sono tutto a zero. E ora sono normale. No, allora, attenuato sei Santiago 4. No, proprio ho messo questo attenuato, però come abbassi mi vai a sparire a zero, no? No, credo fosse un aiutino, capito? No. C'ho la regolazione dei watt, c'ho la regolazione dei watt. Adesso faccio un'altra prova. Allora, ecco qua. Sono apertissimo, sono dalla radio solo. Attenuato più di tanto, porca miseria, ci voleva lo smitter del 140, quello era uno smitter, però tutto il resto si poteva dare, e così è stato. Comunque sì, la modulazione è almeno, ti ricordi gli altri giorni ti dicevamo che ogni tanto eri basso o flusciava quel mic, era una seccatura, questa è bella. Va bene, tanto io vado a fare quello che devo fare, dai, se no poi si fa tardi. Ciao, ci sentiamo. Guarda che dove c'è quello spinotto di merda, mi si è sentita la radio. Senti? Ehi Antò, chiuso si dice a me, non ero io, era una portante senza bip quella. E ho detto, ci sentiamo, dai, che devo andare. Ehi capo, adesso mi si è bruciato. Ma adesso non c'è uscito, ho sentito, deve essere che si è bruciato. E poi muto. Ora va bene, sono uscito. Ehi, ma qualche falso contatto? Guarda, anch'io me lo fa sempre ai microfoni. Certe volte anche il PTT dentro va un po' spruzzato col Dreigot, disossidante, non CRC per carità, non olio, disossidante per contatti. Mi si è bruciato qualche cosa, aspetta, cambio posizione per vedere. cosa è quello, ok? No, perché ti scattava anche il segnale, ti scendeva tipo 9.10, 9.20, 9.10, 9.20, così, capito? Vabbè, dai. E allora vedere adesso, va meglio? Sì, sì, purché però la radio rimanga costante, il segnale rimanga costante, ecco. Poi se sono falsi contatti è una fesseria. Di nuovo, ciao Anto, ciao. Ciao. Mia pompa, mi turlado sì. Sto rientrato. Ehi, c'è Antonio, dai, se io stavo facendo computerando, Antonio, sentiamo, forse più tardi, forse. Vabbè, d'accordo, non c'è problema, quello là. Lo copi? Qua. Ma ti copi, Antonio? Oh. Oppure ha chiuso, già è poco veloce, ha detto ciao, tac, spento. Va bene, sentiamo, forse sentiamo, ciao. Ok, non c'è problema, calmati, non c'è problema. Così mettiamo d'accordo per quella cosa da ordinare, ciao. Io, d'accordo, non c'è problema. Tanto stamattina sono andato dall'amico e mi sono fatto i soldi contanti. Piccato per quell'apparecchio famoso, quello del cavetrico bello, cazzo, che mi piace a me. A un certo punto poi, dopodiché, una volta che ho quello, il 27, in pratica mi ho di l'antenna. Tutto ad un pezzo della rotina, cazzo. Almeno sono tranquillo. Allora hai deciso la Grazioli 7 ottavi d'onda? No, ma tu sei tutto. Non hai perso più roba del genere, ma sei matto. Oh? Se hai perso una cosa del genere, cazzo, mi fuma la casa, cazzo, a un certo punto, cazzo. Lascia perdere, non le faccio più che è stata del genere, cazzo. Guarda, già ho dato la manto, ma l'ho regalata, la verità, l'ho regalata perché a un certo punto non le voglio più sapere di antenne di 7,040 di lunghezza. Se mi metto, mi metto una Mi. Sempre se me la installo una Energy e vaffanculo. Ma è bisogno, cioè, ma non lo so, devo ancora decidere la verità, perché io quello che ho passato io Anto lo copi? Io non lo passo mai nessuno in vita sua dallo spavento che ha preso, quindi non lo so, adesso vedremo, se non mi piace un bazooka, quello che è su me, dopo scendo da Danico, se c'è un bazooka, mi piace il bazooka e uso il bazooka, mi metto il bazooka come antenna, a meno che sono tranquillo, non c'è niente, non ci sono forza. Ci hai alternato forte. Adesso bisogna vedere. E io. Vediamo un po'. Secondo me mi metto bazooka, mi metto. E se la biglietto. E io, c'è Antonio, Antone. Ma la bazooka no, dai, il bazooka va bene contro i carri armati. Per trasmettere ci vuole un'antenna. Sì, ma con la questione di Simona non va bene. Hai capito? Mi è venuto un incubo allucinante. Sai cosa vuol dire? 104 di cuore, cazzo, perché è agitata lì, è stato meno io. Quindi a un certo punto, la capelli a fottere, forse meglio il bazooka che è meglio. No, già da bene, va bene quella che hai tu, quella che ho io, che c'è Antonio, un'antenna modesta, un'altezza anche modesta, perché siamo entro i 6 metri, 6 metri, c'ha più bobina, è leggera, non devi tirantare, non devi fare niente, è come la BA27L. E tanti altri, Silver Road, già ne ha pochi di nomi con l'antenna, tutto è lo stesso progetto e 10.000 nomi diversi. Oh, ed esiste da 40 anni, 50 anni, da quant'è che esiste? E tuttora la fa la Midland, con nome Midland, la Sirio, conosciuto Marco Tassilio e anche altre ditte polacche, adesso da noi non arrivano con le marche, no? Però già ci sono. Antonio, dai, ti lascio con Antonio, sentiamo. Antonio, guarda che ne avevi un'alternata strana nell'ultimo passaggio, forte. Adesso va bene. Benissimo. Scappa. Tu devi mettere un'antenna leggera che non ti devi spaccare il culo scendendola. E boh. Cioè, ti devi mettere un'antenna tipo quella mia, va benissimo, va. Ti metti la Energy quando vedi che c'è temporale, il cacchidutto. Che c'è? Cosa manto? Va a manto, va a gatto, è pisanti, rottura di palle e tutto. Assolutamente la prendi anche senza radiale, che è ancora meglio, non ce l'hai la tua sorella, ti metti in quella e va benissimo, va. Cioè, a me non c'è, non ti devi spaccare la schiena con le antenne, è un'antenna del genere ti devi mettere, che a me non ti devi spaccare la schiena, capito? Lillo! Crescito tu, il problema sai cos'è? Qua, io sono mai mi è successo 30 anni una cosa del genere, mai in vita mia, quindi a un certo punto io sto parlando 300 euro di televisore, il discorso è quello, hai capito? Se non ci sono io a casa, di cosa cazzo fa secondo te? Mica può staccare la luce, no? Che cosa è quello che già lo sai? Lei ha il vizio di guardarsi le cose, i televisori tutti i giorni, mattina e sera, quindi a un certo punto ci passano tutti i televisori. Se ti faccio vedere, anzi te lo faccio vedere a un certo punto, quindi quanto posso dire? Tutto, quello che vuoi. Vabbè, il problema è quello, hai capito? Hai capito? Tutto lì. Ma comunque sia, adesso torna poi, Antonello cambia il percorso, cambia, non me ne frega nulla. O mi metto un'antenna piccola, un bazooka, quello che è, oppure un coso, una BA27L, quello che non è più come prima il percorso. Anto, sei un po' bevuto mi pare. Cambiato, io sono in mezzo, quindi non ci voglio più penetrare. Ma ce la faccio, cazzo, bruciami, cazzo, 300 euro i televisori, cazzo, ma se... Non esiste, no, cazzo, 300 euro i televisori mi sono bruciato, più l'antenna, cazzo, tu... Mi ha fatto vedere, cazzo, cose, ma... proprio... Non troverlo che sta parlando. Beato. Twitch. Vabbè. Pina e tu. Un bastonino. Ringraziare. Mia. Sì, è passato. Mia. Saturo. No, voglio sto parlando piano. Cioè, qualcosa attaccato perché è impossibile. Però cazzo, impianto centralizzato, insomma avevo fatto pagare quello. Lo sai quanto sono? Oh, un bel di naso. E non mangio io soldi. Con chi sei quanto? Parlando a Antonello e c'è il corso. Che più? Se la prende in... Marco Condor. Anche da pure. Ciao Marco lì. Userò ora. Ciao Tony, c'è anche Emanuele, credo. La metterò. Attenzione, Cicomone. Da una parte quello che è. Come suti con radio? C'ho un microfono proprio normalissimo terra-terra. Come fa con la formazione? Una manta, va un coso, una... Marcoli. Ormai è tutto... Io aspetta che c'è il fisco se parlate in due. A questo punto non va più bene, anzi forse è meglio. Perché a Tonino c'è che forse non ho sentito. Allora... Non sei uscito tu. Ora, prova, ora te la prova. Ola, ola. Hai detto, hai fatto il fischiato, ok, poi quando hai detto ola, radio quasi uno. Come mai? Che fa sento? Prova, ola, tre, adesso ho aumentato. Ce la trovo bene. Forse c'è qualcosa girato per quello che mandava. Come mi senti in radio che sto usando il microfono terra a terra? C'è una radio normalissima. Allora ti sentiamo. Ok, no, devo attaccare. Lo sciore non è voglia fare gli attacchi, capito? È una momento abbastanza. Confermo, modulazione tipo omologata, normale. Noi sto usando il microfono della Midland. Proprio terra a terra, e vabbè, perché mi sono staccato gli attacchi, devo rifarli. Ci credi Marcolin che sono roba di 3-4 mesi, non ne ho più attaccato perché non ci sono neanche baracchino. Qua non ti sei perso niente, la 27 langue, ci sono giorni e giorni che è proprio zero totale, quindi... Comunque Antonè, ricordati Antonè, che comunque sia non c'entra la Mantova, può essere anche una mezz'onda, può essere anche un quarto d'onda. Se il fulmine c'è e vuol cadere lì, cade lì. E comunque tu hai già dato, ormai tu hai già dato, adesso per altri 30 anni non ti succederà niente. Ok, guardate, forse c'è anche Emanuele, l'avevo sentito sotto. Me lo auguro che non ci sia più per 30 anni, ma secondo me... Con quel periodo che ci abbiamo adesso dei cicloni, stai tranquillo che ci passiamo tutti, ci passiamo, quindi fregatene. Adesso... Aspetta che mi tocco le balle. Mi ho inviato la... Ma dove stiamo modulando? Pio pio. Chissà. Antonello ha beccato un fulmine. Prende quelle... Ah, quindi stiamo modulando le zone precarie. Mi fa... sta utilizzando l'antenna da macchina sulla finestra. E dove è stata? Ehi Tony, non passi, quando parlate in due fischia. E poi io non lo sento, Santiago 3, ma pio pio per radio. Ho detto, ma è a Sassari. Sì, è a Sassari, ma se bianco per me che avevo fatto delle cose. Più altre cose, poi già te lo racconta lui. Capito Antone, tu hai già dato, quindi ormai è vita. Speriamo di no, questa cosa che hai detto, queste tempeste di fulmini, speriamo che non sia così. Io mi sto già toccando gli zebedei. Va bene, comunque dai, riprendete voi perché io devo fare roba al computer, dai, se no non riusciamo. Roba di 7.30, non so. Riprendi Torino, guariti per me. Ciao Antonio, Antonello, Emanuele, gli ascoltoni tutti. Ciao. Ciao Marcolino. Ciao Marcolino. Ho acceso così a vedere chi c'era, perché ciao Emanuele, se c'è in ascolto, ciao Antonio, ciao Santorella, che l'ho sentito più a più, spero in miglior condizione la prossima volta, ripeto a tutti, ciao a tutti. Arthur. Oh, vabbè, spariti tutti. Sono qua, non ti preoccupare. Ma eravate in tre, non ne avete fatto rotta. Io sono andato a pigliare la bottiglia, a pigiare due tasti, poi il resto già lo fa il calcolatore elettronico. No, stavo su internet perché ho di darmi quell'apparecchio famoso di Aostai. Quella a questa ora, su internet, con la 129 euro, portate e va bene, 0,50. Ricordati la marca originale di quegli apparati, la marca originale, ricordati questo termine, Malahit, Malahit. Il nome è Malahit, Malahit con l'H-I-T. Quello è l'originale, poi le altre sono tutti cloni di cloni di cloni di quello, però il vero, l'unico, l'inimitabile, il più completo, che ha tutte le funzioni, è il Malahit, capito? Che si è aggiornato anche, perché lì cambiano ogni tanto il firmware, il sistema operativo lo aggiornano, quello che è, quelle menate, io non mi intendo. Io sono rimasto a Texun, sono rimasto. Allora, X, I, E, Q si chiama. X6002HF 50 MHz. Ah, Siegu, X, sì, aspetta che me lo guardo. È il cellulare da qui. Oh, aspetta, arrivo subito. Che me lo guardo. Porcaccia la miseria. Guarda che l'offerta, 129 euro è l'offerta. Quello che me l'ho preso, hai capito? L'operato, perché l'offerta? Sono appena in culo, come si chiama? Il chiudo, me lo prendo e uso quello. Oh, se le fai questi nomi un po' sardizzati, sembrano delle maledizioni. Uno è cieco, l'altro è malaitu. Sembrano delle bestemmie. No, c'è scritto qua Dario, Dario SDM portatile X I E Q X 600 HF 50 MHz. Ah, ma ricetta trasmettitore? Certo che okay, ricetta trasmettitore, hai capito? Un preso, però non riesco a vedere, ce ne sono tanti modelli, guarda, aspetta, mettiamo un po' uno a caso. Ecco, sì. Vabbè. Però mamma mia, tutto menu gozo, vabbè, c'hai tutto display, dicono. Però mamma mia. E vabbè, io non sono abituato a queste cose ultramoderne, tanto più che roba amatoriale, ormai non voglio saperne più niente. Però sono belli, non so quanto valgano, come escano in 27 anche, però sono belli. C'è il microfono normale, dopodiché c'è l'alimentatore, la batteria, eccetera, il campo tanto la persona che non te la tirano, sono altri, hai capito? Quindi me l'ho tirato, me lo faccio lì, cosa lo dico, e che vado fuori. Ascolta, ripetimi la sigla numerica, cioè non ciegu, dimmi proprio la parte dove ci sono i numeri del modello. Aspetta. Vaffanculo. Aspetta. YTWX tratteggiato EU. Lo trovi su quel sito. Non l'ho mai detto, vabbè. No, io ero rimasto al ricevitore, no? Tipo Malait, quelli là. SDR, no? Con lo schermo, tutto il waterfall, tutte quelle menate di adesso. E basta. Oh, il mio Texun, no, il mio, quell'altro lì che avevo io di ricevitore, è lì chiuso nella sua bella custodia insieme il pelle. Ogni tanto carico la batteria, a parte che c'è un'altra batteria che devo cercare e caricare. Sono quelle batterie, come si chiamano? Si chiamano 18650, sembrano delle stilone, tipo le stilo però più larghe e più lunghe, no? E ne avevo presa una buona della Panasonic, no, della coreana, vabbè. Cioè quella originale era da 2 ampere e questa è da 3 ampere come batteria, infatti non finisce mai, capito? Le devo caricare, se no si rovinano, è un peccato. Mi senti qua? Thank you. è SDR questo? Sta ricevendo un SDR? Che sta succedendo? C'ha la batteria interna, questo SDR, fa tutto, c'ha anche l'antenna, la nostra antenna. C'ha l'antenna lunga un metro e venti, una cosa del genere. Sono uno vicino a te. Solo uno, non l'altro, è capito? È bello per quello. Poi c'è, tirano il microfono, tirano tutto, tirano. È bello per quello. 129 euro, 50 euro, eccetera, eccetera. È bello per quello, cazzo. Figurati tu, è bello per quello. Guarda, mi faccio fuori il cavo, mi faccio fuori, guarda. Se prendo questo mi faccio, se ne prendo due mi faccio fuori il cavo, mi faccio fuori. A un certo punto mi conviene, per 129 euro, 0,50, scusa, come frequenza, mi conviene più fare fuori il cavo. E me ne prendo due, mette 100 euro, sono 129 sono, cazzo, una cazzata, insomma, la verità, sono una cazzata. Ora, vado, mi prendo un berlinale, tanto per dire, e posso uscire col berlinale, cazzo, fa da una parte all'altra. Certo, però Antone, già non capire l'inglese, molte comunicazioni, vedi, stavi ascoltando, e beh, cosa hanno detto? Dimmi, vabbè, già lo sai, no, una seccatura. Infatti ascoltavo italiani più che altro. Sì, certe cose le capisci un po', però insomma, alla fine te ne scende anche quello. Anche la CAF te ne scende. Sì, ma loro è un 28, ma secondo te cazzo, a me interessa la 27, a me interessa il 28 MHz, capito? Siccome si può programmare con CD a un certo punto, quindi diventa una cazzata, hai capito? Eia, stavo guardando vari modelli di quella marca, già ne fa poca di roba, una volta eri quasi obbligato, prima di questa roba cinese, a pigliare le marche solite buone, Icom, Yaesu, Kenwood. Adesso queste cinesaglie speriamo siano fatte bene, ma le recensioni sono buone di alcuni apparati, perché poi sono la maggior parte apparati QRP. Per fare QRP arrivano certi fino a 5 watt, certi fino a 20 watt. Uno addirittura, vedi, questo frontalino è tutto in oghi, c'ha addirittura presa per l'antenna verticale, tipo portatile, sicuramente anche la batteria interna pure questo. Questo è il modello 6100 che sto guardando, questo è veramente bello, porca miseria. Però, già lo sai. Bello. Ciego, o come si pronuncia, Ciego X6100, questo che cos'è? 6002 quello che c'ho io, che questo è il 6002, comunque tu, vabbè, se arriva, te lo sto dicendo, appena arriva ti chiamo e lo usi, e lo pruffi un pochettino, vedi tu, almeno voglio vedere come funziona, hai capito? Tu ne sai più di me. Se vai anche magari programmare, non lo so, questo non te lo so dire. Ci sarà, non lo so, qualche cosa che ti diranno, boh, a un certo punto. Ma comunque sia, quando arriva, ti chiamo e dico, vieni, ritiralo e trovalo. Non devi fare altro, se devi programmarlo in fatto, se devi programmarlo in coso, se devi programmarlo in quell'altro, in una frequenza di trasmissione di ricezione, perché fa da 0 a 50 MHz, quindi c'è poco da sbagliare. e io ho abbassato il ricevitore che ha dato una botta di volume fortissimo di quel rem, non so perché, mi ha fatto assustare pure. Ogni tanto mi... Lo so, ma comunque sia, tutto il cielo. Nel caso dovesse telefonarmi con la genere che, guarda, se non prendo, le stiamo portando, eh? Una volta me la portano a casa, ti chiamo e dico, Marco, l'apparecchio è questo, eccetera, eccetera. Prima di farmelo dare, ti chiedo il dischetto, nel caso ci voglia la programmazione, prima di tutto. Così sei più tranquillo anche tu. Lo puoi programmare come cazzo ti pare, ti piace, capito? Il discorso è quello, in trasmissione. Ma penso di no, comunque. Io non ho visto, cioè, il programma di dischetto, la verità, ma nel caso, lo sai che i cinesi sono fatti così, glielo pago il dischetto, il cavetto, eccetera, eccetera, fatelo la coppia, così sei più tranquillo. E sei a posto. Ehi Antonio, nel frattempo stavo leggendo anche qualche informazione su questi apparati. E quanta roba c'è, però salvazione calata, parlo per me. Comunque Antonio, Sì, sono qua. Mi sono spostato un secondo. Sì, fai con calma, no, stavo pensando che i cinesi come sono entrati nel campo radio, porca miseria, una volta mi ricordo da Mario Notari, la follia, poi me lo sbatto a spalle, me lo sbattevo, il TH-75 pagato sull'unghia in contanti, 750.000 lire, mamma di tutti, per fare cosa? Per ascoltare. Non esisteva nemmeno la banda PMR all'epoca, quindi tutte le altre bande erano off-limits. E pur conta che un apparato di tale, la qualità di ricezione, cioè ci aveva non so quanti, pochissimi microvolt di sensibilità, no? Però non ti davano per esempio subtoni, nemmeno il moduletto dei subtoni analogici era opzionale. Infatti poi quando mi sono reso conto della fesseria che avevo fatto, l'avevo versato di nuovo, rivenduto praticamente nuovo, quasi nuovo, avevo perso 50 euro, roba del genere, perché non mi serviva niente, una cosa del genere, era lo sfizio di averlo in mano, di provarlo, di provare le funzioni e poi tutto finiva lì. Ma dove volevo arrivare? E adesso, come sono arrivati i cinesi, era uscito il famoso Bao Bao, con 30 euro c'avevi una radio, tutte e due le bande, subtoni, analogici, tutto completo. Che naturalmente il Bao Bao deve lavorare solo in antenna sua, quella di gomma sua, perché... lo sai, con l'antenna esterna va assordato, molti questo fatto l'hanno capito, molti non l'hanno capito, qualcuno l'ha accettato, qualcuno non l'ha accettato, con l'antenna sua va bene, è come che avesse quasi una, ci sono come dei componentini dell'antenna, è come se avesse un filtro passabanda per eliminare la banda bassa della radio FM, ma nemmeno perché il Baofeng stesso riceve le radio FM. Forse per come è concepito il ricevitore, proprio che prende colpi, capito? Con le antenne grandi. Però con 30 euro avevo un portatile eccellente per fare attività amatoriale, HF, VHF, tutto. È stata una rivoluzione. E poi sono aumentati i rompipalle, insomma, chi lo usa in banda amatoriale col software, chi faceva casino lì, chi faceva casino là, noi almeno andavamo in banda 446 almeno, e insomma, che te devo dire, capita la storia? Io ho già capito, non è quello il problema, posso ancora andare in 446, lo sai, a meno che non andiamo in... va bene. ma Giuseppe gli ho dato quei contatti dei nuovi che sono usciti, quindi 420, come si dice, 462, 250, quindi. Però gli altri sono tutti normali. No, sto scherzando, andare a parlare in banda al Ministero dell'Interno, non ti inandi. Lo sto dicendo. Così ci internano a noi, ma ci internano ben bene con i ferri ai polsi e anche alle caviglie, in Ungheria anche le caviglie i ferri li mettono, come quella disgraziata, quella che era tornata in Italia, in catene proprio l'hanno portata al processo. Va bene, è finito il tempo di 45, è finito il tempo di scazziare. Poi vabbè, ognuno si piglia la responsabilità, ma noi danno non ne abbiamo fatto volontariamente, capito, né niente, prove, test. Poi Antonelli, ne hai trovati PMR veri che hanno in tutti i canali? Perché i canali d'auto erano diventati 16, quelli analogici, erano raddoppiati i canali. E diciamo che gli altri canali, gli altri 8 canali, oltre i normali 8, si alternavano con frequenza a quelli digital PMR, capito? Diciamo quel pezzo lì è condiviso tra digital PMR e canali analogici, gli altri 8, capito? No, sono 8 PMR e 8 LPT. Ci sono i portatili ormai, anche addirittura gli puoi piazzare anche il ponte d'aria addirittura. Se tu guardi, ci sono i portatili, agganci, due portatili assieme e fai il ponte d'aria, di quelli della Prodi. No, ma lasciamo per i ponti radio, poi Antonio ricordati che hai il trico di Parrot che tanto ci piacevano, poi non ne abbiamo mai preso. Il ministero aveva fatto una nota dove diceva che era espressamente vietato interfacciare il PMR con qualsiasi voglia di ripetitori, che siano Parrot, che siano online, cioè niente Parrot, niente collegamenti col computer con questi gelli o interfacce strane. Mi pare i radiatori lo possono fare, ma i PMRisti no, come regola, poi vabbè, come legge, no, diciamo. E avevano proprio fatto una nota per far capire perché stavano esagerando, mettevano Parrot ovunque, Parrot che da una parte entrava in PMR, dall'altra parte usciva in mano amatoriale, dice LPD, sì, con 20 watt però, cioè, hanno fatto casini e più vai a soleticare la coda del drago, il drago prima o poi si sveglia e brucia. E comunque ripetitore, le due ci sono, dai cinesi ci sono, hai capito? Le vendono, costano anche una cazzata, in pratica. Devi pigliare due portatili, in pratica piccolini, arrangiare assieme, dopodiché ti fa la ponterario. Ma siccome a me mi piace il Parrot, come già detto, prendo e me lo prendo, non me lo frega niente. Antone, avete passato il periodo. Guarda, prima c'era quello originale, c'era quello che vendeva questo tizio, l'ATX 2000, ecco, ATX 2000, ce l'aveva solo lui, non so, aveva fatto intrallacci con qualche ditta e quindi lo portava lui in Italia. Ho provato a cercarlo online da così paralleli, ma non c'era, poi ha smesso di portarli, ho chiuso la fabbrichetta. È molto valido, c'è il radiotone, aspetta com'era la sigla, 888, forse era anche migliore dell'ATX 2000, tutto poteva funzionare negli stessi modi, però alla fine cosa vuoi ripetere, cioè, per fare cosa? Poi io anzi dubito, anche Antone dubito che metterò antennine UHF fuori, non ho più voglia, cioè ci sono altre priorità qua, vediamo. Vabbè, per ascoltare la volevo mettere, per il ricevitore che qua con questa